Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Alle famiglie italiane manca la quarta settimana perché lo stipendio non basta più. La nuova impresa, quella responsabile socialmente, non può non curarsi di loro, guardare e passare. Così Luxottica, impresa veneta leader mondiale nella produzione di occhiali, ha pensato di dare un segno di attenzione ai bisogni dei propri dipendenti e ha stretto un accordo con Coop Trentino. Operai e impiegati della multinazionale, oltre alla busta paga, riceveranno un buono per 110 euro di spesa in generi alimentari, Nutella compresa. Il consiglio di amministrazione del gruppo Edison, invece, ha scelto di ridursi lo stipendio del 10%. Non sono soldi che entrano nelle tasche dei dipendenti o costi in meno per gli utenti, ma a volte condividere una stretta alla cinghia può consolare. Ma è la svedese Electrolux che si fa notare su tutti. Lo stabilimento di Scandicci, in Toscana, non chiude e non manda a casa gli operai, ma grazie anche all'aiuto degli enti pubblici si riconverte. Nasce così Italia Solare Industrie, il primo polo del centro Italia per la produzione e lo studio di tecnologie applicate al settore fotovoltaico. E anche l'ambiente ne guadagna. Bentrovati, questo è Ferry Boat e io sono Enzo Argante, il traghettatore. Avete sentito da questa scheda? Non sono tre casi di eccellenza, sono, speriamo che si affermi sempre di più, l'anima della impresa sociale. È proprio su questo che c'è la differenza. Forse avrete sentito parlare di triple bottom line, people, planet, profit. Ecco, sono le tre parole magiche che definiscono l'impresa sociale in alternativa dell'impresa del profitto a tutti i costi, dell'impresa che andava dritto in una sola direzione. Le tre P vuol dire people, planet, profit, vuol dire attenzione alle persone, attenzione al pianeta, attenzione al profitto, perché se non funziona un'azienda non dà lavoro e il meccanismo si inceppa. Questo concetto è arrivato ai livelli massimi possibili dal punto di vista della teorizzazione. Nell'enciclica Caritas in Veritate, Benedetto XVI, mette proprio il dito lì, sulla centralità della persona umana e su come l'impresa, il mondo del lavoro, deve prestare la dovuta attenzione. E visto che parliamo in questo momento in un'Europa dove si registrano, ahimè, dati della Comunità Europea, 7 milioni di disoccupati, direttore Gianfranco Fabi, che ho l'onore di avere ospite nella trasmissione, 7 milioni di disoccupati in Europa, non è esattamente una coincidenza che il Papa si occupi di questo in un'enciclica? Sì, indubbiamente siamo in un momento economico particolarmente complesso, particolarmente difficile. Questa enciclica pubblicata lo scorso anno, tra l'altro sappiamo che è rimasta in attesa per continui aggiornamenti, proprio perché la crisi economica richiedeva una risposta molto forte anche da parte della Chiesa, della dottrina sociale della Chiesa, che ha sempre avuto un'attenzione molto particolare per la realtà dell'uomo all'interno dell'economia, sottolineando la necessità di una centralità appunto della persona. Quindi questa enciclica è giunta in un momento in cui la riflessione su una economia capace di rispondere anche alle esigenze di medio termine della persona, delle famiglie, è certamente qualcosa di positivo e che merita una riflessione. È molto importante che il Papa, che il capo della Chiesa mondiale, si occupi di un tema del genere, perché noi stiamo parlando della crisi economica globale e quindi di una risposta globale, non di una risposta circoscritta. Abbiamo citato Luxottica, Edison, ma soltanto e unicamente per dare un segno tangibile di che cosa vuol dire. Però questo tema è un tema che coinvolge l'intero sistema, la famosa globalizzazione. Certo, è un tema che coinvolge la globalizzazione e coinvolge anche la necessità di affrontare e andare nella direzione di ridurre le disuguaglianze. Purtroppo la crisi economica degli ultimi anni ha ampliato le disuguaglianze all'interno dei paesi e tra i paesi poveri e i paesi più ricchi. Quindi si tratta di avviare una politica che riduca le disuguaglianze. Ovviamente bisogna ragionare in termini globali, ma anche i piccoli passi fatti nella direzione giusta sono indubbiamente positivi. Avviare tanti piccoli passi, tante piccole iniziative, può cambiare anche la stessa prospettiva dell'economia e può riuscire a mettere giusta dimensione anche gli impegni dei singoli imprenditori, delle singole imprese, delle singole realtà. Quindi in questo senso i dati, anche piccoli, sono positivi. Non va dimenticato che appunto la dimensione globale esige anche risposte globali che non possono essere solo delle imprese, ma devono essere anche della politica. E della Chiesa, giusto? Salvatore Martinez, che è con noi in collegamento. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È presidente del Movimento per il Rinnovamento dello Spirito. Lei è uno dei 20 consultori, si chiamano così, di Papa Benedetto XVI, sostanzialmente uno dei consulenti del Papa, è corretto? Sì, il consultore del Pontificio Consiglio per i Laici e della Famiglia, sono due dicasteri tra gli altri che collaborano con il Santo Padre. Io ho la sensazione, Martinez, che noi stiamo ascoltando, leggendo e stiamo ascoltando delle parole nuove da questo punto di vista. Sì, nuove e antiche al contempo, perché non possiamo dimenticare quel campione di umanesimo sociale che è stato Giovanni Paolo II. La via dell'uomo è l'uomo. Dinanzi alla crisi, Benedetto XVI, con Caritas in Veritate, ci dice qualcosa che non può essere trascurato. Non c'è fine o scopo terreno che meriti più dell'uomo o che richieda di sacrificare la persona. Non c'è causa che possa giustificarci dal passare sopra l'uomo. L'uomo non può essere aggirato, manipolato, scavalcato. E questa credo sia una grande lezione di realismo in un tempo che invece mira a ridurre ogni cosa e in testa l'uomo. Però la sensazione è che noi abbiamo vissuto una grande stagione, non la definiamo nel tempo e nei modi, sarebbe un'ambizione sfrenata, ma abbiamo vissuto una stagione compulsiva in cui questa attenzione sull'uomo, questa attenzione sul pianeta, non ci sono stati al pari dell'attenzione sul profitto. Questo non vale per le aziende, vale un po' per tutti, dalla politica alle istituzioni, anche al singolo consumatore forse. Eh sì, perché abbiamo dimenticato, e l'enciclica punta dritto su questo obiettivo, che parlare di vita umana è sempre parlare di vita associata e più precisamente di società umana. Ora ci siamo lasciati un Novecento alle spalle che ci diceva che le disuguaglianze devono essere ridotte, il tentativo di creare una società di uguali. Caritas in Veritate dice che invece c'è un'altra parola da introdurre all'inizio di un millennio ed è fraternità, cioè si può essere uguali e non essere fratelli, e nel tempo della globalizzazione in realtà ci accorgiamo che le disuguaglianze sociali non possono essere annullate, vanno piuttosto riconciliate, e di qui la centralità dell'uomo. Lei, il suo movimento conta 200.000 aderenti e lei, mi risulta perché l'abbiamo rincorso in giro per l'Italia, continua a presidiare il suo popolo, chiamiamo così. Anche in questo rapporto c'è un cambiamento. E perché credo che questa nozione di popolo che il marxismo, il nichilismo, il positivismo hanno provato ad amplificare o a ridurre, oggi sia invece una chiave interpretativa del nostro tempo. La crisi di cui tanto si parla è in realtà una grande opportunità di crescita per la nostra gente, se avremo il coraggio e la responsabilità di affermare che la vera crisi è morale, direi ancor più spirituale. Parlare di economia sociale significa intanto parlare di ecologia umana, cioè quale uomo, quale prossimità umana, quale capacità di creare percorsi di redenzione umana. Noi lo vediamo con i detenuti, con gli ex detenuti, con le famiglie in difficoltà, c'è una umanità che soffre. Riuscire a parlare alla gente, riuscire a parlare al cuore della gente, in un tempo in cui certo bisogna allargare la ragione, ma non bisogna però neanche essere così stretti nel cuore, credo che sia decisivo. Grazie Martinez. Direttore, anche questa potrebbe essere una parola nuova, è una crisi morale quella che stiamo vivendo, solo economica. Beh, indubbiamente, la qualità morale viene fuori, si esprime proprio nei momenti di maggiore difficoltà, è una crisi che indubbiamente coinvolge le scelte etiche, le scelte profonde che riguardano la persona. L'enciclica mette in rilievo proprio come non si possa separare l'impresa dall'etica, non si possa separare la persona dalla propria motivazione, dalla motivazione che spinge ogni persona a svolgere un'attività economica. E l'enciclica considera appunto l'impresa, il mercato, la struttura, il profitto, tutti come strumenti che la persona deve mettere a frutto per far avanzare quella che è poi la verità sulla persona, la verità sull'uomo, che è la parte fondamentale, che è il riconoscimento dei bisogni fondamentali della persona, il riconoscimento della giustizia, il riconoscimento della solidarietà. Ecco, in questo senso il grande salto che pone l'enciclica è quella di non separare il profit dal non profit, ma di dire c'è bisogno di una realtà in cui la solidarietà entri anche nelle imprese che hanno giustamente come obiettivo il profitto. Noi di queste cose ci rendiamo anche conto che possono essere argomenti non esattamente divertenti, forse anche un po' difficili, però di queste cose dobbiamo parlare, perché l'economia sociale si basa sulla partecipazione, sulla presenza, su questo cambiamento che non a caso poi è alla base di quella responsabilità sociale delle imprese di cui abbiamo sempre parlato, che si sta verificando e che è, come dire, la molla che ha fatto scattare il meccanismo. È cominciata in sordina, ma oggi è diventata centrale. E chi meglio di Salomone Gattegno, buongiorno professore, presidente della Fondazione CSR e anche vicepresidente di Confindustria, vicepresidente di Confindustria con delega alla sicurezza del lavoro. Dal suo punto di vista, decisamente la responsabilità sociale delle imprese è l'elemento chiave addirittura. Io, se così, il mio pensiero è molto semplice, cioè questa enciclica del Papa richiama tutti noi a dei valori che condividiamo, che sono parte dell'impresa, forse qualche volta sono stati messi in seconda linea guardando in particolare il profitto, ma se noi mettiamo la centralità dell'uomo al centro dei nostri interessi, noi facciamo impresa guardando non sul brevissimo, ma nell'interesse dell'impresa, del sociale, del mondo, con un'ottica un po' più lunga, ma sicuramente di maggiore interesse. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Eccoci qui di nuovo in studio con Ferri Bot e con il Sargante, il traghettatore. Stiamo parlando di un'enciclica del Papa, dell'enciclica del Papa, Caritas in Veritate, ma non preoccupatevi, non stiamo parlando di teologia, che sono sempre temi molto difficili, ma di una frase che è contenuta in questa enciclica, la centralità della persona umana, non intesa ovviamente, sarebbe scontato, in quanto tale dal punto di vista esistenziale, ma intesa dal punto di vista del lavoro. E siccome quello del lavoro è il grande, il grandissimo, l'enorme, sconfinato tema che stiamo affrontando e ahimè credo che dovremo continuare ad affrontare anche nei prossimi anni, ecco che improvvisamente queste parole che abbiamo definito nuove con il direttore Gianfranco Fabi che è qui in studio, diventano centrali in un dibattito che sarà oggetto di un convegno. I convegni se ne fanno tanti, devo dire, ma questo qui è anche istituzionalmente rappresentativo, perché chi partecipa, il Presidente del Senato, i tre sindacati confederali, il Presidente di Confindustria, il Ministro Sacconi, il Ministro del Welfare, definiscono un interesse e un'attenzione istituzionale, politica e sindacale veramente di grande impatto, al punto da, direttore Fabi, da chiedere a lei, a te, di portare avanti questa iniziativa, che è di Salomone Gattegno, Presidente della Fondazione CSR, che è qui con noi, era con noi anche prima dell'interruzione. La Fondazione CSR, Presidente, è istituzionale anche questa? Dunque, la Fondazione CSR è stata fondata dal Ministero del Welfare, dall'INAIL, dalla Bocconi e da Unindustria, perciò ha dei soci, dei partner assolutamente importanti, e si occupa proprio di diffondere, diciamo, i concetti di responsabilità sociale nelle aziende. E quindi avete deciso di prendere la palla al balzo. Ecco, abbiamo ascoltato con molto interesse questa enciclica, l'abbiamo vista, abbiamo ritenuto che fosse assolutamente importante farne un convegno di alto livello. Credo che possa essere un là per alcuni concetti nuovi che dovrebbe essere far parte del DNA di tutte le nostre aziende. Ecco. Parlavamo durante l'intervallo, dicevamo anche con il direttore, e quindi mi rivolgo a lui, certamente fra gli ospiti d'onore, quelli diciamo più importanti, ci devono essere i giornalisti, perché è la stampa forse che deve dedicare maggiore attenzione a questi temi, che sono più centrali forse di altre futili iniziative passeggere. Sì, indubbiamente la responsabilità sociale, l'impegno sociale, la presenza, il fatto di vivere all'interno di una società in maniera appunto responsabile è qualcosa che dovrebbe essere nel DNA dei giornalisti, cioè di portare alla ribalta le cose costruttive, le cose che possono aiutare la società a crescere nel suo complesso e ogni persona a trovare il posto che gli è giusto, gli è compatibile, gli è doveroso all'interno della società. Ecco, conoscere è una cosa importante e quindi i giornalisti dovrebbero approfondire di più queste tematiche e dovrebbero magari portare di più questi temi, questi problemi e soprattutto direi forse portare di più i dati positivi, perché il nostro mondo, il nostro sistema economico è dato anche, è composto anche da tanti elementi positivi, da tante esperienze magari piccole, magari limitate, che però, come dire, non fanno notizia. Ecco, dovremmo riuscire a far fare notizia anche di questi dati positivi. C'è una, adesso non voglio fare il colto, non mi si addice, ma una poesia di Tonino Guerra, che ormai ha 90 anni, è un grandissimo, il grande poeta, sulla bellezza. E quello che lei ha detto, il direttore ha detto, è bello, così come presidente Cattegno, sono belle anche alcune esperienze importanti. Lei è stato molto gentile a non citare le aziende, ha detto alcune aziende non le ha citate, ma la verità è che la cultura di questo paese, nella storia di questo paese, ci sono bellissime storie di impresa che sono la cultura, che sono il nostro sentire nel rapporto, sono le imprese forse la parte bella, diciamo, che va valorizzata in questo processo di formazione, di divulgazione. In Italia noi abbiamo queste imprese familiari che sono veramente assolutamente importanti, che sono messe poco in evidenza purtroppo per tutta una serie di cose, che anche in questa crisi si stanno comportando in maniera molto responsabile. Noi abbiamo dei dati dove le aziende, pur di mantenere i propri dipendenti, non fare cassa integrazione eccetera, fanno sacrifici molto, molto grossi, ecco. E secondo me queste notizie dovrebbero essere portate all'attenzione di tutti. Grazie Presidente. Indubbiamente, direttore, cioè, ora o mai più, cioè, o adesso questo cambiamento, anche nel modo di gestire l'informazione, di fruire l'informazione, oppure torneremo ai grandi deliri, ai grandi, come dire, lustrini e paillette della società consumistica, dove tutti comprano qualcosa, ma dove il valore di fondo un po' si perde. Ma sì, direi che il momento è opportuno ed è un momento in cui, per una serie di fattori purtroppo anche negativi, come la crisi economica, come le difficoltà, come la disoccupazione, ecco, per tutti questi elementi è il momento per ritrovare una responsabilità sociale che sia concreta. Ed è significativo proprio ricordare l'enciclica e partire dall'enciclica, perché l'enciclica fa un salto di qualità proprio nella responsabilità sociale. Responsabilità sociale è un elemento, è una definizione che ormai da decenni, possiamo dire, percorre le logiche aziendali, ma era vista molto spesso come qualcosa di immagine, come qualcosa che l'azienda faceva per migliorare la propria presenza, per migliorare il rapporto con l'ambiente esterno, con i propri dipendenti, per avere un'immagine migliore e quindi per fare meglio poi il proprio profitto. Ecco, l'enciclica non esclude indubbiamente questo, ma fa un salto di qualità. Dice che la responsabilità deve essere qualcosa che compenetra anche la stessa gestione aziendale, che compenetra e diventa solidarietà nel programmare le strategie di azienda, che non sono più strategie solo e unicamente miranti al massimo rendimento e all'efficienza, che restano, ma sono strategie che hanno come prospettiva quella di un mercato che deve essere solidale, che deve essere aperto ai bisogni di tutti. Ecco, questo impeccabile ragionamento, Ornella Cilona della Segreteria Nazionale CGIL, vale per l'impresa, per l'imprenditore, ma ovviamente vale anche per chi ci lavora nell'impresa e quindi vale tantissimo per il sindacato, che è, come dire, rappresentativo della forza lavoro, della cultura del lavoro, e che su questi temi forse fino a questo momento non è stato probabilmente protagonista come potrebbe e come dovrebbe. Sì, indubbiamente il problema della responsabilità sociale si è posto con forza in questo ultimo periodo a seguito della grande crisi economica e finanziaria globale, che ha mostrato tutte le carenze di un capitalismo lasciato a se stesso, e che ha smarrito i valori fondamentali dell'etica. Ecco, proprio partendo da questo, c'è bisogno oggi di un nuovo slancio verso una responsabilità sociale. Proprio le vicende di quanto è avvenuto negli Stati Uniti mostrano che l'avidità ha portato a una crisi, un terremoto, un vero e proprio terremoto economico che ha colpito tutto il mondo. Ecco, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, chi fa l'impresa sono le persone che ci lavorano. Su queste persone chiaramente questo discorso va fatto, perché la mancanza di una cultura, diciamo, consapevole sul ruolo dell'impresa e del mondo del lavoro purtroppo obiettivamente ha colpito anche la cosiddetta classe dei lavoratori. Lei è una fautrice della, virgolette aperte, digitalizzazione del sindacato, cioè dell'uso delle nuove tecnologie per, immagino, anche costruire questa nuova cultura di partecipazione e di attenzione ai temi e delle responsabilità. Esatto, tutta la CGIL, non solo io, è sulla strada di un nuovo rapporto con i lavoratori e con i cittadini attraverso le nuove tecnologie. Basti pensare che sul portale della CGIL è possibile già oggi chiedere una consulenza su problemi del lavoro, iscriversi al sindacato, ricevere informazioni. Tutto questo perché oggi è possibile, grazie alle nuove tecnologie, avviare una nuova forma di democrazia della rete, quindi avviare un nuovo rapporto anche con coloro che sono stati magari estranei finora a un rapporto con le organizzazioni dei lavoratori. Grazie. Direttore, condividi la sensazione che se il sindacato non diventa elemento trainante di questa nuova cultura di impresa sarà difficile questo cambiamento? Ma indubbiamente il sindacato ha una grande responsabilità, per restare nel tema, così come una grande responsabilità hanno ognuno dei componenti dell'impresa, perché in un'impresa che nelle prospettive in cui ci siamo detti tutti partecipano e devono partecipare sempre di più agli obiettivi e alle logiche dell'impresa, e quindi il sindacato deve aprirsi a questa partecipazione, sollecitare questa partecipazione e forse superare, ma penso che in gran parte l'abbia già superata, quella logica della contrapposizione, quella logica del fatto di essere contro qualcuno per ottenere un obiettivo. Indubbiamente la prospettiva è quella di guardare tutti nella stessa direzione, in cui ognuno ha un ruolo diverso, un ruolo indubbiamente diverso, quello dell'imprenditore rispetto a quello del dipendente, dell'operaio, ma è un ruolo che ha uguale responsabilità e soprattutto uguale dignità. Ecco, in questa prospettiva allora questa partecipazione più convinta, più aperta, più informata anche, può veramente dare ossigeno, dare fiato, dare prospettive di crescita alle imprese. Grazie al direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi, grazie ai nostri ospiti. Il viaggio verso l'economia sociale continua, grazie. Ricordate, su www.radio24.it potrete riascoltare la puntata di oggi, ma anche le altre puntate. Buona giornata a tutti.